24 di Giovanni Minoli. Per me la scissione è un momento traumatico e mi verrebbe voglia di considerare questo una sorta di ricatto morale. E se scissione deve essere, ma io spero di no, che sia una scissione senza alibi, certo non con l'alibi del calendario. Noi abbiamo posto un tema serio che è lo stesso di milioni di cittadini che considerano il PD non più un partito di sinistra. Per di più ci si sente raccontare che a soffrire sono loro. Insomma, mi sembra che sono maturi i tempi per una forza nuova. Una parte di noi, me compreso, insomma, pensa che se va avanti così il PD va a sbattere. Siamo tutti a cercare di vedere come, come tenerla in piedi sta baracca qua. Dopo una presunta riunione di ieri sera, Orlando, Cuperlo e Damiano hanno sancito la nascita di una nuova area. È stata una riunione che hanno tenuto con la mia presenza ben saputo. No, non c'ero e mi dà veramente un po' fastidio che io non ci fossi e fosse comunque garantita la mia presenza, perché di solito cerco di andare dove sono presente. Allora, buongiorno, bentornati su Mix 24, buongiorno onorevole Francesco Boccia, Presidente della Commissione Bilancio della Camera, protagonista di uno dei protagonisti di queste convulse trattative che arrivano alle comiche, come abbiamo sentito dalle parole di Cuperlo. Ecco, siamo un po' alle comiche finali, onorevole Boccia. Buongiorno. Buongiorno. Siamo alle battute finali. Non ce la fa. Mi dispiace perché Renzi non ha fatto nulla per evitare la scissione. Molti di noi stanno facendo tutto quello che è umanamente nelle loro possibilità per evitarla. Senta, ma oggi sarà l'ultimo giorno o sarà il penultimo? Perché siamo sempre al penultimo giorno. No, penso sia l'ultimo, anche se. Ma pare che questa direzione però non ci va nessuno, c'è la direzione ma non ci va Renzi, non ci va Bersani, non si sa se ci va Emiliano, chi ci va? Secondo me bisogna esserci, Lei ci sarà e parlerò. Ma lei si rende conto che si capisce davvero poco da fuori? No, non si capisce poco, sì, mi rendo conto che non è facile comprendere le dinamiche, la verità è che c'è un segretario che dopo la sconfitta al referendum del 4 dicembre ha tenuto in ostaggio un intero partito. I suoi predecessori, Veltroni e Bersani, avevano lasciato libere le loro maggioranze, perché anche Veltroni quando si è dimesso aveva una maggioranza bulgara, ma la lasciò libera di decidere il percorso successivo. Stessa cosa fece Bersani e passarono 8 mesi dalle loro dimissioni. Ecco. All'elezione del nuovo segretario, e questo segretario no, ha utilizzato una maggioranza di 4 anni prima, tenga conto c'eravamo anche io e Emiliano in quella maggioranza, certo. E tanti altri, li ha tenuti in ostaggio pensando di utilizzare i numeri di 4 anni prima per definire le regole dei prossimi 4 anni. Vabbè, e siamo di nuovo alle regole, quanto tempo ci vuole per preparare? Un partito è un'associazione, no, d'accordo. Anche sulle regole. Certo, questo ovviamente, forze, certo. Però fuori il mondo cambia e qui si capisce poco. Le faccio un esempio del caos attuale attraverso le parole di una persona che lei stima, che sponsorizza, che è Emiliano. Senta Emiliano, Emiliano 1. E se quel partito è sopravvissuto e ha dato la possibilità a Matteo di essere presidente del Consiglio ed è arrivato al 40%, è perché il suo segretario è stato capace di vivere la comunità e non il personalismo nella politica. Ecco, questo è Emiliano 1 che parlava di Bersani. Adesso le faccio sentire Emiliano che parlava invece domenica di Renzi. Ho fiducia in lui. Che ho fiducia nella sua capacità di guidare questa gente meravigliosa, che ho fiducia nel fatto che egli non ha intenzione di sacrificare, che egli non ha intenzione di sacrificare alle sue legittime aspirazioni politiche. Ci mancherebbe che qualcuno si permettesse di dirti che non ti devi ricandidare al congresso, ma io non so chi abbia mai potuto anche solo concepire una cosa del genere. Ecco, qual è l'Emiliano vero? No, l'Emiliano vero quello personale il primo, il secondo cerca di mediare di fronte ad un disastro possibile, ma chiunque di noi proverebbe a mediare. Guardi che nessuno di noi è come Renzi, che tira dritto e passa su chiunque si ritrova davanti. Emiliano, di quest'ultimo tentativo disperato dell'Assemblea, è un Emiliano umano che cerca di salvare il salvabile prima del baratro, perché si rende conto che Renzi ancora una volta non sta concedendo nulla, e ovviamente ad un'assemblea difficile prova a dire: io mi fido del fatto che non voglia piegare tutta questa comunità alle sue aspirazioni. Io non ci vedo nulla di contraddittorio. Niente, no, ma io volevo un'interpretazione autentica, visto che lei è, come dire, in qualche modo è kingmaker di Emiliano o qualcosa del genere. Arriverà un terzo Emiliano adesso? Ma non so, guardi, io spero ci siano personalità coraggiose nel nostro partito, anche dentro la maggioranza che si è formata in questi anni, che abbiano voglia di misurarsi. Cioè Orlando, per esempio? Orlando sarebbe un ottimo candidato, se si candidasse, secondo me, farebbe solo bene al PD. Senta, allora, per chiudere, lei oggi va alla riunione, ha detto, alla direzione. Io vado, no? In direzione. Per dire cosa? Parla per dire cosa? Parlo per dire che mi aspetto, se non dal segretario, almeno dal presidente Orfini, che ora è reggente in questa fase in cui non c'è più il segretario. Certo. Di fatto oggi Renzi è un semplice iscritto come me, e mi aspetto che Orfini possa dare quelle risposte che noi tutti abbiamo chiesto. Quella più importante è la conferenza programmatica, che tra l'altro ha chiesto Orlando. Sì. Lo spiego per i radioascoltatori, altrimenti certo. Pensa che siamo matti. Noi abbiamo un po' chiesto, lo pensa, non mi creda, lo vedo dai messaggi. È un po' li capisco, però vorrei che anche loro pensassero non ad un'assemblea di condominio, ma una cosa simile, quando bisogna tenere insieme tutti. E non tutti hanno le stesse idee. Un'associazione, tra l'altro, di milioni di persone è una roba così. E la conferenza programmatica fatta prima significa: facciamo una conferenza. Vabbè, parliamo dei temi. No, mettiamo. Però non dei temi qualsiasi, dei temi che ci hanno diviso. Certo. Il fisco per me è progressivo. Certo. Per Renzi forse no, dopo tutto quello che è successo, togliendo l'IMU sulla prima casa anche ai più ricchi, le tasse alle multinazionali web, dobbiamo metterle e farle pagare o no? Perché certo, Renzi, questa è una grande battaglia. Sì. Il lavoro. Sul lavoro il Jobs Act ha funzionato. Vabbè, no? Quindi lei oggi farà un'analisi. No, ma questa cosa, scusi, l'ha chiesta Orlando, non l'ho chiesta io, che posso essere oggi di parte perché sostengo Emiliano o lo stesso Emiliano. L'ha chiesta Orlando. Vogliamo dare ad Orlando, ministro della giustizia di questo paese, dirigente autorevole del PD, una risposta. Va non bene. Penso che stia chiedendo la luna nel posto. Vabbè, lei in definitiva, intanto in questi giorni ci risentiremo. Lei in definitiva resta o va? È ancora lì appeso a un capello per restare? Io fino all'ultimo secondo voglio restare nel mio partito, perché e provare a cambiarlo. Va non bene. È il partito di Renzi. D'accordo. È il partito di centinaia di migliaia di iscritti, di milioni di fondatori, tra l'altro. Va bene, va bene, ok, d'accordo. In queste ore segnalo le parole sofferte di Romano Prodi. Sì. Io dico, almeno di fronte a tutto questo ci vorrebbe un po' più di umanità e di generosità. Va bene, allora vedremo le prossime puntate di questa telenovela. Grazie per la sua disponibilità, onorevole Boccia. Ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni. Insomma, Mario, un po' le coma che finale ci siamo. Decisamente. Due numeri, anzi tre. 12% di disoccupazione, 40% disoccupazione giovanile media, 60% disoccupazione giovanile mi sembra al sud. Abbastanza basta. Chiaro. Di questo non si parla. Pietrangelo, sono comiche o sono muro. Tragedie? No, no, anche io voglio dare i numeri. Dai numeri. E cioè, con un calcolo ottimista, 2 italiani su 10 sono veramente interessati alle questioni del Partito Democratico. E vorrei segnalare sul Fatto di oggi un bellissimo articolo di Massimo Fini, dove spiega come fallisce l'informazione, i giornali e l'informazione in genere, perché da giorni siamo ossessionati dal racconto di quello che accade al PD, di cui non interessa. E infatti tra poco parleremo di quello che accade nel mondo e vedremo che è molto molto interessante. Ieri comunque noi abbiamo fatto una domanda sulla nostra pagina Facebook e Twitter, abbiamo chiesto agli ascoltatori, a voi, quale sarà secondo voi il nuovo segretario del PD? Renzi, Emiliano, Orlando erano le alternative. I risultati che abbiamo avuto nel sondaggio dei nostri ascoltatori: 66% dice che sarà Renzi, il 20% Emiliano, infine il 14% dice Orlando. Va bene, vedremo come va a finire, ma intanto parliamo di una lettera e cambiamo pagina, di una lettera molto importante scritta dal deputato americano Patrick McHenry, il vicepresidente della Commissione per i servizi finanziari, scritta al presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, il 31 gennaio scorso. È una lettera importante perché ristabilisce in un modo chiaro e definitivo il concetto del primato della politica sulla finanza. Ma ascoltiamo la lettera, poi ne parleremo col professor Paolo Savona. Congresso degli Stati Uniti, 31 gennaio 2017. Cara Presidente Yellen, le scrivo a proposito della partecipazione della Federal Reserve ai forum internazionali di regolazione finanziaria. Nonostante il chiaro messaggio dato dal Presidente Trump, la Federal Reserve continua a condurre negoziati nelle istituzioni finanziarie, tra burocrati globali, all'estero, senza trasparenza, responsabilità o autorità per farlo. Questo è inaccettabile. Le strutture segrete di questi forum internazionali vanno riconsiderate. Trattati come gli accordi di Basilea 3 sono stati negoziati dalla Federal Reserve senza dare sufficienti notizie all'opinione pubblica americana e sono il risultato di un opaco processo decisionale. Queste norme internazionali sono diventati regolamenti interni che hanno costretto le aziende americane di varie dimensioni ad aumentare i requisiti di capitale, con il risultato di rallentare la crescita americana. È un obbligo di tutti i regolatori americani quello di sostenere l'economia ed esaminare con attenzione tutti gli accordi internazionali che stanno uccidendo i posti di lavoro in America. Di conseguenza, la Federal Reserve deve smettere di negoziare norme obbligatorie finché il presidente non avrà la possibilità di nominare funzionari che abbiano la priorità del migliore interesse degli americani. Cordiali saluti, Patrick McHenry, vicepresidente della Commissione per i Servizi Finanziari. Ecco, questo documento è un capitolo della durissima guerra in corso tra il presidente Trump e l'establishment e la burocrazia di Washington, che finora aveva condotto la politica di Obama. Ecco, professor Paolo Savona, buongiorno, vicepresidente dell'Aspen, economista, già ministro dell'Industria, uno dei massimi esperti di banche e di finanza in Italia. Professor Savona, ha sentito con noi questi primi passi della lettera. Che impressione le hanno fatto? Dunque, distinguerei la lettera dai contenuti della stessa. Sì. La lettera è quasi vergognosa perché la sottopanza di un sottopanza, cioè la vice di una commissione parlamentare che si rivolge al capo della Federal Reserve, la banca centrale del mondo che stampa dollari per tutti, e gli dà istruzioni di come deve comportarsi. Questo mi sembra quasi offensivo, quindi devo dire... Questo dal punto di vista dello stile, diciamo. Esatto, più che una lettera sono segnali di fumo degli Apache, cioè siamo tornati indietro i 200 anni. Però è una lettera che rimette al centro il dibattito sul primato della politica sulla finanza. Concordo perfettamente con lei. Allora, ho detto, distinguiamo, sì, la lettera sì. Sarebbe stato corretto, a parte direi che queste cose non si mettono per iscritto, un incontro tra la Yellen e Trump che decidono quali sono i limiti nel comportamento. Io sarà un incontro che... difficile, mi pare, dopo sì, questa lettera. Ma evidentemente questa lettera ha anche lo scopo di un ballon de sé, perché certo, a un certo punto naturalmente non si può trattare a quei livelli. Adesso non lo so quale sarà la risposta che darà la Yellen. Penso che a un certo punto siano tutti riuniti per dare una risposta. Per quanto riguarda i contenuti, certamente la indipendenza delle banche centrali, che ha un significato nel fondamento democratico, che non si può tassare, no taxation without representation, che non si può tassare se chi è tassato non partecipa alle scelte, che è il fondamento della democrazia. Esattamente. E il ragionamento era: siccome la moneta crea l'inflazione e l'inflazione è una tassa occulta, vista, allora diamo alla Federal Reserve e quindi alle banche centrali, compresa quella italiana, che la ricevette da Mussolini nel 1926, quindi abbiamo anche una particolare storia, insomma, a un certo punto l'indipendenza delle banche centrali fu riconosciuta e che è quell'indipendenza che oggi Trump nega. Ecco, ma la Federal Reserve, perché l'inflazione non la crea più la moneta, o almeno può crearla, ma ci sono ben altri fenomeni che la creano, che certo. Ma professore, quindi il meccanismo è saltato. Ecco, cioè è saltato il meccanismo che portava, come dire, in qualche modo all'autonomia della banca centrale. Esatto. E quindi lei, professore, ha studiato in America, si è specializzato all'MIT di Boston, dove ha collaborato con il premio Nobel italiano Modigliani. Ecco, sarebbe e mai stato alla Federal Reserve. La Federal Reserve. Sarebbe mai stato possibile ipotizzare un simile scenario? Cioè è una rottura definitiva di un modo di vivere, insomma, di concepire il rapporto fra le istituzioni? Questo indebolirebbe il dollaro, perché oggi il dollaro è moneta internazionale, perché esiste negli Stati Uniti un meccanismo istituzionale di indipendenza della banca centrale dalla politica e, diciamo, di forza anche della banca centrale nelle relazioni internazionali, tali che a un certo punto reggono, direi, questa posizione del dollaro nel mondo. Però il cittadino, in cui Trump vuole il dollaro debole, insomma, cioè vuole il dollaro suo, insomma, il suo dollaro. Esatto. Ecco, ma il cittadino comune però comincia a chiedersi chi governa realmente, perché se poi alla fine governano i banchieri, tanto vale dargli le chiavi della Casa Bianca e farli entrare lì direttamente, no? E anche su questo dobbiamo chiarire. Alcune decisioni possono essere prese dalla Federal Reserve, ma dalla Banca d'Italia in modo autonomo, ma i casi che cita, come il caso di Basilea, dello Stability Forum, passano tutti attraverso i parlamenti. Quindi il Parlamento poi si pronuncia, poi magari il Parlamento non è ben informato né vuole informarsi, come il ben noto bail-in in Italia. Esattamente, sì. Le decisioni vengono prese, come dice nella lettera, dai burocrati globali, e questo è vero, e vengono prese anche in condizioni di opacità e di non chiarezza. Questo però, diciamo, Trump da questo punto di vista è arrivato a dire basta questa opacità, no? Mi sembra di capire. Come abbiamo detto prima, c'è un contenuto di questa assoluta indipendenza che non è più, direi, difendibile, perché ha perso le sue basi. Certo. C'è un contenuto di informazione precisa da dare alla pubblica opinione, quindi vi sono ancora elementi su cui discutere, ma questa lettera è una lettera di rottura, per giunta offensiva, per quello che ho detto in apertura. Sì, certo, ma diciamo che però presidente, almeno scriva il presidente della commissione. E questo fa parte dello stile. E Trump, mi sembra che sullo stile qualche problema ce l'ha. Però nella sostanza il problema che viene posto, come dice lei, se ho capito bene, è un problema reale. Questo è il mio punto di vista, per quello che ho voluto distinguere lo stile dal contenuto. Sul contenuto c'è da discutere, però con un po' di cautela, perché se facciamo saltare pure la forza del dollaro nel mondo, alla fine andiamo tutti alla deriva. Insomma. Certo, ma Trump comunque si è scontrato con un sistema di potere consolidato, eterno, non eletto, questa burocrazia potentissima e opaca. C'è qualcosa di simile anche in Europa? Cioè, secondo lei, le decisioni della Banca Centrale Europea sono trasparenti? È vero che adesso si pubblicano le minute, però insomma, non lo so. Guardi, se trasparenza intendiamo comprensione, non c'è. Questo è un punto fondamentale. Non ci sono gli elementi perché la gente capisca. Metta, quando parliamo del debito sul target 2, cosa vuol dire appunto? Ci sono anche alcuni miei colleghi che non sanno cosa significa. Sì, no, io le assicuro che non lo so. Gente preparata. Esatto. Se invece è l'informazione, naturalmente diamo le informazioni corrette. Si preparino i parlamentari quando dibattono di queste cose. Però credo che alla fine è inevitabile lo scambio tra chi è preparato e chi a un certo punto prende, certo, le decisioni. Però se il dibattito, per usare il suo esempio, sul Target 2 incide in modo pesantissimo sulla mia vita, è bene che capisca anch'io cosa vuol dire. Questo è fondamentale, è là che è avvenuta la rottura con la politica. Infatti, la rottura con la politica, è proprio la lì. Gente non capisce più niente. Non capisce sa più niente. Che non arriva a fine mese e che i figli non hanno la possibilità di avere e non sa perché lavoro. E non riesce a capire il perché capiti questo. È questo che fa reagire in un modo che può andare in tutte le direzioni. Sentiamo l'ultimo passaggio della lettera. La Federal Reserve deve smettere di negoziare norme obbligatorie finché il presidente non avrà la possibilità di nominare funzionari che abbiano la priorità del migliore interesse degli americani. Cordiali saluti, Patrick McHenry, vicepresidente della Commissione per i Servizi Finanziari. Ecco, al di là dello stile, questo finale però evoca il potere di nomina del presidente americano e la direzione da dare alla politica economica. Con la BCE tutto questo però non è proprio più possibile, è così? Esatto, è proprio così, anche se la chiusura di quella lettera è una contraddizione, perché lui dice dobbiamo sottrarci a queste negoziazioni opache condotte anche da istituzioni nostre come la Federal Reserve, e quindi vi nominerò un altro burocrate sopra il quale vi darà le istruzioni. Cioè, voglio il burocrate mio invece che il burocrate tuo, insomma, mi pare di capire. Esatto. Più o meno lì, perché qui abbiamo l'impressione che il sistema si sta avvitando e che l'ascesa dei partiti nazionalisti sia frutto anche, come abbiamo detto, di questa governance così opaca e del dominio della finanza che deriva da questa opacità. Però senta cosa ci ha detto ieri che a Mix 24 il professor Marcello Minenna sul funzionamento dell'euro. Le sembra normale che all'interno dell'euro noi abbiamo gli spread tra i vari titoli di Stato dell'Eurozona? Cioè noi abbiamo un costo del denaro diverso per ogni paese. Può avere anche l'impressione di comprarsi un caffè pagandolo un euro in tutte le capitali d'Europa. In realtà tra le banche, cioè tra l'economia che conta, l'euro è già superato, perché viene regolato l'euro più lo spread per l'Italia, l'euro più lo spread per la Spagna. Allora, dobbiamo prendere atto che una prima questione da affrontare in maniera forte è azzerare lo spread. È così, professore? È proprio così, parole sacrosante, anche se il meccanismo che abbiamo messo in piedi approvando l'Eurosistema e la Banca Centrale Europea, argomento sul quale io ho annoiato e mi sono annoiato da molti molti anni, lo so bene, è che noi abbiamo deciso di non avere più il rischio di cambio, certo, perché abbiamo bloccato i rapporti di cambio e abbiamo creato il rischio sovrano, cioè il rischio sui debiti di Stato, certo, che dovrebbe essere, e in parte lo ha fatto Draghi con gli acquisti sul mercato secondario dei titoli pubblici, dovremmo avere un'autorità che azzera anche questo spread. Però in realtà non è vero. No, non è questo, anzi diciamo che viene considerato uno strumento per calmierare i paesi spendaccioni come l'Italia, i quali creano un rapporto debito pubblico PIL per poco di più, ecco. Cioè, lei sta sottolineando un tema generale. Nel mondo sono saltati i riferimenti precisi che offriva la politica economica, esatto, prima con i liberisti e poi con Keynes, con gli interventisti dello Stato, e oggi è diventata qualcosa di estremamente difficile da applicare, anche perché sono ritornati da capo gli Stati, Cina, cioè, detto, Russia, detto, e adesso gli Stati Uniti. Cioè, detto in inglese è un gran casino, veramente, sì, mi sembra, no? Io credo che lei ha usato anche un inglese antico, ce ne sono di più moderno. Senta, un'ultima cosa, professore, che vorrei condividere con lei. I sondaggi in Francia danno in netta ascesa la Le Pen, e oggi il sondaggio di ieri la dà in vantaggio di 7 punti al primo turno. Sappiamo che i sondaggi valgono quello che valgono, l'abbiamo visto, anche quello è uno strumento che va ripensato, però insomma per adesso lo usiamo. E al secondo punto perde, ma Macron è in caduta libera al secondo turno. La Francia può essere il colpo di grazia per l'Eurozona se vince la Le Pen? Se vincesse la Le Pen? Altro che, sono certo che è così, e purtroppo queste cose vanno cavalcate prima, non dopo. Certo. Invece si continua a sostenere la tesi, l'irreversibilità dell'euro, la impossibilità di condurre politiche attive di lotta alla disoccupazione, si continua a trincerarsi in un vecchio castello dove fatto di parole che non ci sono. Ecco, un'ultimissima cosa, uno studio uscito oggi in Francia dice, virgolette, se esce l'Italia dall'euro non rischia nulla. È così? Questo è un po' esagerato. Ah. Se è governato il processo, che è direi la mia posizione, sì, anche i momenti di crisi richiedono governi dei processi. Purtroppo per avere governi dei processi dobbiamo avere statistica pacifica in grado di farlo, e quindi gira che ti ci riga, gira che ti gira, arriva il problema, arrivano gli sconquassi e direi la povera gente paga le conseguenze. Questi che prendono posizione, dobbiamo rimanere nell'euro, dobbiamo accettare le riforme, dobbiamo fare tutte queste cose che sono di tipo deflazionistico, in genere sono coloro i quali, come diciamo anche per noi in certo senso, sono capaci di coprirsi dalla crisi, ma certo, la povera gente, certo, loro, è la grande, alla fine ci guadagnano, chi ci pensa? Non ci pensa nessuno, questo è il tema, esattamente, siamo arrivati lì e si capisce perché la gente si ribella, non esatto, capisce, e capisce che chi comanda non si occupa minimamente della sua condizione, è così. Perfetto. Grazie, perfetto, grazie. Che è la grande evoluzione della democrazia. Grazie professore, a presto. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms. Mi sembra che sia stato lucidissimo come sempre, ma forse anche sì, più di sempre, nell'analisi della situazione che si è creata, Mario, sì, no? Beh, devo dire, la lettera è molto interessante, molto, no? Interessante. Al di là dei... anche perché è definitiva, cioè pone il problema chiaro e tondo, una cosa, cioè, durissima, non si scappa. Chi comanda, dice, chi comanda? Chi comando comanda? io sono, come sai, io sono per il primato della politica, sempre, sempre. Certamente per l'indipendenza e l'autonomia, per carità di Dio, però poi alla fine chi prende i voti decide dalle mie parti. Se finché c'è la democrazia, non altri, così, cioè, non conosco un metodo migliore, capisci? Cioè, sì, l'altro, sì, metodo ha tutti i difetti, ma insomma, poi alla fine l'altro metodo, se è la usiamo monarchia, la democrazia, esattamente. Cioè, tu, Pietrangelo, che sei per la democrazia, per la monarchia? La lettera dice con brutta prosa quello che un alato verso di un grande americano stabilì, cioè Ezra Pound, quando disse: finiti il re, sarà l'epoca dei banchieri. E la democrazia si trascina questa conseguenza. Questo. Ma vorrei andare alla sintesi tua. Chi comanda non capisce la situazione. Ci facciamo caso che in questo periodo, nell'era appena iniziata di Trump, l'establishment si sta comportando come accadde in Russia poco prima della rivoluzione bolscevica e ancora prima in Francia, quando la monarchia non riusciva a capire cosa stesse per accadere. Ed erano tutti concentrati a mangiare brioche, un po' come in questi giorni col dibattito del PD. Posso aggiungere, che sia vero. Posso aggiungere un'altra citazione colta, allora, visto che ci siamo. John Steinbeck, furore, ci sono dei passaggi in quel libro sulle banche, siamo nel periodo della Grande Depressione, che sono strabilianti, cioè che danno l'idea della percezione del male che può fare appunto la finanza quando non è l'uomo, controllata all'uomo, esattamente. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS è pubblicità. Mix 24. Ecco, intanto, come tutti sappiamo, continua la protesta dei tassisti per il quinto giorno consecutivo a Milano, a Roma, a Napoli, eccetera. Oggi è fissato un incontro con il sottosegretario Delrio, ma i tassisti sono tutti riuniti a Montecitorio per protestare, quelli che stanno a Roma naturalmente. Massimo, abbiamo il telefono, Massimo, un tassista che si trova proprio davanti a Montecitorio. Qual è la situazione? Buongiorno, buongiorno, mi dica. C'è una bella manifestazione, c'è una parecchia gente, sono arrivati già un video da stamattina che ho visto su Torino, su Milano, c'è manifestazione. Ma che cosa vi aspettate dall'incontro con Delrio? Beh, ci aspettiamo che almeno ci venga incontro sulla parte gestionale del lavoro. Sono da tanti anni che il settore va risistemato, va riorganizzato. Ma se oggi l'incontro con il ministro Delrio non andasse come sperate, sarà uno sciopero ad oltranza? Questo è un incontro col ministro, poi decideremo. Lei è ottimista? Spero di sì. Vabbè, allora intanto sperano anche i tassisti, oltre che quelli del PD, oltre che noi sulle banche centrali. Dobbiamo vivere di speranza, perché se no davvero la situazione diventa molto complicata. Grazie, grazie Massimo. Pietrangio, fattici sentire una bella musica, va? Arriva quei giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri cento. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai. Un giorno. Allora, è nati sotto una cattiva stella e però sempre persi d'amore, Romeo e Giulietta, lei sempre più bella nei suoi 50 anni, lui forte di un'età tutta di autunni, se ne stavano a fare colazione in attesa di un treno direzione Mantova. Ha chiamato Mercuzio, ha voluto questo brano nella versione di Franco Battiato perché la dedica abbia buon fine. Mi dici le stesse parole d'amore, tra un mese e tra un anno scordate le avrai, amore che vieni da me fuggirai. Si sarebbe da sentirlo tutto per ore, sì. Meraviglioso. È così. Vabbè. Invece torniamo alla realtà drammatica. Sì, Maria. Voglio tornare in Francia, che abbiamo citato prima con Savona, per fare un punticino e direi trené. Tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum. Il shot loving bloom. Va bene, grande trené, boom boom, questa grande shot trené. Allora, en marche, come si dice en marche? Tu hai un accento migliore di me, Giovanni, in francese. Vabbè, ho vissuto un po' lì. Dai, dillo tu, dai. En marche, vedete en marche. Che lui ce l'ha migliore. Allora, insomma, così dicono quelli della sinistra, e lo slogan di Macron è l'uomo del socialismo smart nouveau, io lo chiamo, e sì. Dove i maestri del pensiero oggi ci indicano lui come il sol dell'avvenire, e noi ci crediamo, ovviamente, per carità. E viva dunque. Bene, che fa Macron? Segue Marine Le Pen a 7 punti di distanza nei sondaggi. È un sondaggio di Opinion Lab di ieri, citato anche dal Financial Times, quindi non stiamo citando proprio robetta. E 27 a 20 nel primo turno. Quindi Macron sarà pure bravo, però questa storia che insomma, sta dietro. E deve guardarsi pure da Fillon, che anche lui è al 20%. Quindi in realtà la seconda piazza, in realtà non è morto Fillon. No, non è ancora morto, e non stanno bene tutti e due però a questo punto. La cosa interessantissima è l'andamento sul ballottaggio. Allora, nel ballottaggio l'Union Sacrée funziona ancora, Le Pen verrebbe battuta 58-42. C'è solo un problema, che Macron non ha più benzina. Questo è il punto che sta venendo fuori per ora. Cioè, l'8 febbraio, io vi dico, Macron aveva 66% di consensi, quindi 8 punti in più rispetto a oggi, 12 giorni. In 12 giorni ha perso 8 punti. La Le Pen, l'8 febbraio, era al 34%. Ieri ha fermato la lancetta del contachilometri a 42, quindi lei ha preso 8 punti in più. Vabbè, in 12 e quindi la Francia, giorni. Come dicevamo prima, rischia di diventare davvero il punto di rottura dell'Europa. Esatto. La Francia non è quello che ci sta raccontando il mainstream, purtroppo, perché le presunte classi colte, gli intellettuali cosiddetti, che intellettuali parti non sono, eccetera, si stanno scontrando con quella che ancora una volta hanno perso di vista, la realtà. Cioè, se non raccontano le cose per quello che sono, è difficile. E poi ci avranno le sorprese. Esatto, che possano cambiare. Salamino! Cambia il vento, Giovanni, cambia il vento e urla il palinsesto. Renzi perde e pur si deve andar. Fischia il vento, urla A Matteo, proprio non gliene va bene una. Dal referendum che perde alla faida interna al PD e alla RAI, comincia la rottamazione del rottamatore. Matteo, povero Matteo, cresce in libre, cresce di ciuffo, ma decresce in minutaggio TV. Sparisce dalle ospitate e già Rai 3 della pur renziana Daria Bignardi lo cancella alla vecchia maniera. Ma lui lo ha detto... toglie, lo toglie dagli schermi come Stalin faceva saltare dirigenti caduti in disgrazia già dalle fotografie, figurarsi poi dalle ospitate. No. Michele Anzaldi, per esempio, che è il deputato PD della commissione in vigilanza RAI, ha già approntato con Paolo Bracalini oggi sul giornale un elenco dettagliato sulle epurazioni in atto. Giovanni, addirittura. Certo, ve l'elenco, ve l'elenco. Curano i renziani, mi sembra veramente clamoroso. Cose turche, cose di pazzi. No, l'elenco è questo. Per esempio, Giovanni, domenica, da Lucia Annunziata, c'era Pierluigi Bersani. Vabbè, normale, un protagonista. Però non, per esempio, Renzi oppure Maria Elena Boschi, non c'era. Ma tu sai che noi li invitiamo, non vengono mai, forse adesso verranno. Forse, perché l'elenco non giustifica. Per esempio, vai. A carta bianca c'erano Enrico Rossi e Francesco Boccia e non, per esempio, la Boschi oppure Matteo Renzi. Da Iacona poi c'era Gianni Cuperlo e non, per esempio, faccio per dire, Renzi oppure Maria Elena Boschi. E stasera, Giovanni, stasera, col calare delle tenebre della prima serata, nella prima puntata della già fortunatissima trasmissione di Bianca Berlinguer, l'ospite d'onore non sarà, faccio per dire, Matteo Renzi o, giusto per fare un altro esempio di pluralismo, Maria Elena Boschi, bensì, lo sentite? Ci va col cane. Preceduto dal suo fido Aiace, l'ospite di stasera sarà Massimo D'Alema. Ah, una quindi, sorpresa. Certo, hai ragione, Giovanni. Prepariamoci dunque a dare asilo a Renzi, alla Boschi. Certo, poi la Boschi soprattutto non è mai venuta da noi, dovrebbe arrivare, ecco. Cosa dire? Neanche cosa dire? Manco Renzi è venuto qua. Però è venuto vabbè, d'accordo, un'altra cosa, insomma, conflitto di interessi. Vabbè, comunque sempre da te viene. L'esercito dei renziani ha approdato in Viale Mazzini al seguito del fichissimo Antonio Campo nell'orto nel bel mezzo di febbraio, e qui entra la storia, nel bel mezzo di febbraio si dà all'8 settembre. O forse direttamente al Triangolo Rosso, se l'osservazione di Anzaldi, come tipico nel suo stile franco e diretto, va a toccare un nervo scoperto. Dice: non è mai stata smentita la voce che Bianca Berlinguer potrebbe candidarsi alla segreteria del Partito Democratico. Ancora. Dice: ci potrebbe essere un conflitto di interesse. Dice quello che dice sempre Anzaldi, che quello che stupisce, Giovanni, quello che stupisce è l'assenza del direttore generale della RAI e del direttore di RAI 3. Cambia il vento, ma questo è pur sempre... Intanto facciamo gli auguri al debutto di Bianca Berlinguer col fido D'Alema, sicuramente ci sarà anche lui. Aiace al polpaccio. C'è ancora una bolla, Mario. Sì, due numeretti all'America. If I can reach the stars, pull one down to you. Certo che questa è bella, questa è il clip. Change the world. Senti, Giovanni. So you could see the truth. And this love I have. Allora, Giovanni, io ti do solo due numeri. C'è stato un sondaggio di Fox News molto interessante sull'amministrazione Trump. Tu sai che sanno tutti che i giornali non amano Trump, sono tutti contro, sono tutti pro-democratici. E vabbè, è una linea, nessuno discute. Però, anzi, la Fox gli ha fatto fare l'errore dell'attentato in Svezia, perché lui ha detto: ma io l'ho sentito sulla Fox. Vabbè, quindi un giorno una tragedia. Però sulla Svezia bisogna fare una puntata. Vabbè, la facciamo. Domanda: ma voi credete di più agli elettori americani, cittadini americani? Voi credete di più all'amministrazione Trump o ai reporters che raccontano quella che fa l'amministrazione. Risultato: il sondaggio dove l'hai Fox detto? News, Fox News. Un po' di parte? Non è di parte. Su queste i sondaggi sono quelli che sondaggi sono sondaggi, va bene. Li prendiamo per quello che sono. Però io la do così, poi dalla. Si fa la sua idea. Fammi fare anche il bastian contrario. Comunque, crede nell'amministrazione Trump, verità, diciamo, quello che dice il 45% degli intervistati. Mentre i reporter hanno preso il 42%. Quindi sono pari. 3 punti in più l'amministrazione. Vabbè, ma insomma, grosso modo, pensavo un'altra cosa, pensavo che sarebbe stato molto diverso. Ma infatti tutti pensavano sarà scoppiato, e invece no. D'altronde è uscito un altro sondaggio su The Hill, che è un giornale non pro Trump, anzi giornale di Washington, che dice che il 73% degli elettori americani chiede al Partito Democratico di collaborare con l'amministrazione Trump, fare la pace, insomma. C'è il realismo. Sai, ci sono tutte le manifestazioni in America, poi l'America è un po' grande, è grande. Senti, c'è anche sondaggio, Michele Anzaldi ci aggiorna in diretta Michele Anzaldi ci aggiorna in diretta e dice che il 9 gennaio Graziano Del Rio e Luca Zingaretti ospiti, anche loro minoranza PD. 10 gennaio sempre su Rai 3 Mentana e Travaglio. Beh, Mentana non vota per nessuno, quindi è uno però, spirito libero. E appunto perché libero è minoranza PD, direbbe qualcuno, giusto? 11 gennaio Camusso e Michele Placido. E adesso, recente scoperta, Bersani da Floris, insomma. Floris è alla 7. È alla 7. No, è alla 7. No, è alla 7. Mi sembra. Però alla faccia da Rai 3. Alla faccia da Rai 3. Vabbè, ok. Questo non è male. Comunque, salutiamo Anzaldi, che è un nostro ascoltatore. Viabilità. Mix 24. Nel 1954 l'Italia si rende protagonista di un'impresa di importanza universale, è la conquista del K2. Con 8.611 metri dopo l'Everest, il K2 è la seconda montagna più alta del mondo ed è anche la più difficile per gli scalatori che hanno provato a conquistarla. Dopo numerosi tentativi falliti di arrivare in vetta, nel 1954 ci prova una spedizione italiana. È la prima impresa del genere a essere documentata per intero dalle cineprese. Vengono selezionati i migliori scalatori e a coordinarli è Ardito Desio. In un paese con 12 milioni di poveri e 100.000 migranti ogni anno, la scalata diventa qualcosa di più di una pur grande impresa. Era un sogno, è stata una cosa grandiosa, perché parlando di una spedizione più alta del nostro Cervino, del Monte Bianco, andare a una spedizione est europea era una cosa talmente grande, e mai più pensavo a questo. Il 20 aprile si passa all'azione e il primo gruppo di alpinisti parte per l'impresa in Pakistan. Dopo 5 mesi, il 31 luglio del 1954, la radio dà la notizia del finale epico. Gli uomini che hanno conquistato la vetta sono già eroi nazionali. Sono arrivato in vetta, so che siamo arrivati, ho visto che sopra di noi non c'era più niente, ho piazzato la piccozza e ho pianto. Dunque, dopo il giornale radio, la grande impresa della scalata del K2. Qui c'ho un ascoltatore, Mario, per te, che ha una domanda per te. Dice Secchi, ma quando parli di intellettuali, ti riferisci a Buttafuoco? Pietrangelo, ma tu sei un intellettuale, fammi capire, io non lo so. Boh, sì, forse sì. È muto, si è ammutolito. No, secondo me è un po' che chic. Dici? Sì? Sì, è chic, com'è? Uomini chic e femmine pittate. Com'è che... Io non parlo per evitare che poi finisci a querela. Scusa Giovanni, informo le classi colte che sul mercato dei titoli di Stato la Francia è, secondo il Wall Street Journal, è benvenuta nel club di quelli che hanno il debito in difficoltà, e cioè sotto stress c'è un fenomeno di vendita, ovviamente. Che cosa significa questo? Significa che la Francia è in crisi. Sì, e no, e soprattutto che le chance di vittoria di Marine Le Pen con i mercati stanno crescendo. Adesso intanto col professor Roberto Bernabei commentiamo come sempre le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. le frontiere della ricerca. American Journal of Epidemiology, dicembre 2016. Ottimismo e mortalità. Come direbbe Catalano, meglio essere ricchi e belli che brutti e poveri, e certamente, probabilmente, meglio essere ottimisti che pessimisti. Anche perché si è dimostrato che attributi psicologici positivi, come l'ottimismo, diminuiscono l'incidenza di eventi sanitari avversi, specialmente le malattie cardiovascolari. E siccome l'ottimismo in qualche modo si può imparare, cioè un pessimista può lavorare su di sé e diventare ottimista, si può tentare interventi innovativi che migliorino la salute pubblica e aumentino la longevità, semplicemente cercando di dire ai nostri pazienti, o a voi che ci sentite, beh, cercate di guardare la vita con un po' di rosa invece che con molto nero. Allora, uno studio che cerca di dimostrare, perlomeno nelle donne, perché sono state studiate solo donne, se esiste definitivamente una positiva associazione tra ottimismo e salute. Ancora una volta le infermiere americane ci danno la risposta, perché si è andato a indagare sulle infermiere nel Nurses Health Study, 70.000 infermiere valutate per il loro ottimismo nel 2004, e nel periodo 2006-2012 si è valutata la mortalità, dopo aver calcolato i cosiddetti fattori di confondimento, le caratteristiche socio-economiche, la depressione, le condizioni di salute e gli stili di vita. In qualche modo così la statistica veniva pulita, perché non c'erano questi fattori di confondimento che venivano calcolati. Il risultato? Il quartile con il più alto ottimismo campa di più ed ha meno cancro, ictus, malattie cardiovascolari e respiratorie e meno infezioni. Fatevene una ragione e fatevi due risate. Mi sembra che il professor Bernabei oggi proprio ci ha dato il consiglio giusto. E intanto noi in regia abbiamo facce nuove, perché Alessandra Fiori ha spodestato Gloria Guerrera e si è presa anche la sigla finale della trasmissione. Vediamo fin dove si arriva nell'allargarsi. Vediamo un po', dai, dove, cosa ci fai sentire oggi? Ti sorprenderò, perché oggi Gloria Guerrera non c'è e a noi manca moltissimo, anche a te, e lo sappiamo. E quindi dedichiamo proprio a lei una canzone che potrebbe piacerle, perché è Ritornerai di Bruno Lauzi, però per lei, nella versione di Morgan. Ritornerai, lo so, ritornerai. Quando tu sarai con me, ritroverai.